Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Voi non firmerete quest'ordine, milord, disse Felton, muovendo un passo verso il duca. Non firmerò quest'ordine? E perché? Perché farete un esame di coscienza e renderete giustizia a Milady. Le si renderà giustizia mandandola a Tyburn, disse Buckingham. Milady è un infame. Monsignore, Milady è un angelo, voi lo sapete, e vi chiedo la sua libertà. Ma insomma, siete pazzo a parlarmi in questo modo. Milord, scusatemi, parlo come posso, mi trattengo. Tuttavia, milord, pensate a ciò che state per fare e abbiate timore di oltrepassare la misura. Cosa dite? Dio mi perdoni, esclamò Buckingham, ma credo che costui mi minacci. No, milord, per adesso prego e vi dico, una goccia d'acqua basta a far traboccare un vaso colmo. Una colpa leggera può attirare il castigo sul capo che è stato risparmiato nonostante tanti misfatti. Mr. Felton, disse Buckingham, uscite di qui e mettetevi immediatamente agli arresti. Mi ascolterete fino in fondo, milord. Avete sedotto quella giovanetta, l'avete oltraggiata, violata. Riparate il vostro delitto verso di lei. Lasciatela partire liberamente e non esigerò altro da voi. Non esigerete, disse Buckingham, guardando Felton con stupore, scandendo ogni sillaba di queste due parole. Non esigerete. Milord, continuò Felton, che parlando si riscaldava sempre di più, milord, badate, tutta l'Inghilterra è stanca delle vostre iniquità. Milord, avete abusato del potere regio che quasi avete usurpato. Milord, ispirate orrore agli uomini e a Dio. Dio vi punirà più tardi, ma io vi punirò oggi. Ah, questo è troppo, gridò Buckingham, muovendo verso la porta. Felton gli sbarrò il passo. Ve lo chiedo umilmente, disse. Firmate l'ordine di scarcerazione di Lady De Winter. Pensate che è la donna da voi disonorata. Ritiratevi, signore, disse Buckingham, altrimenti chiamo e vi faccio mettere ai ferri. Non chiamerete, ribatté Felton, interponendosi fra il duca e il campanello posato su un tavolino intarsiato d'argento. Badate, milord, siete nelle mani di Dio. Nelle mani del diavolo, volete dire, esclamò Buckingham, alzando la voce per attirare gente, senza però chiamare direttamente. Firmate, milord. «Firmate la libertà di Lady De Winter», ripeté Felton, tendendo un foglio al duca sotto costrizione. «Voi scherzate! Olà, Patrick! Firmate, milord! Mai, mai, a me!» gridò il duca e in pari tempo si precipitò sulla spada. Ma Felton non gli diede il tempo di sfoderarla. Teneva aperto e nascosto nel giustacuore il coltello con cui si era ferita Milady. D'un balzo si avventò sul duca. In quel momento Patrick entrava nella stanza gridando «Milord, una lettera dalla Francia!» «Dalla Francia!» esclamò Buckingham, dimenticando tutto al pensiero di colei donde veniva la lettera. Felton approfittò del momento e gli conficcò nel fianco il coltello fino al manico. «Al traditore!» gridò Buckingham. Mi hai ucciso. Assassino! Urlò Patrick. Felton si guardò intorno per fuggire e vedendo la porta sgombra si lanciò nella stanza attigua. La attraversò di corsa e si precipitò verso la scala, ma sul primo gradino incontrò Lord De Winter, che nel vederlo pallido, stravolto, livido, macchiato di sangue sulla mano e in faccia, lo afferrò per il collo gridando, lo sapevo, lo avevo intuito e sono giunto un minuto troppo tardi, a me infelice. Felton non oppose la minima resistenza. Lord De Winter lo consegnò nelle mani delle guardie che, in attesa di altri ordini, lo condussero su una piccola terrazza dominante il mare. De Winter si precipitò nel gabinetto di Buckingham. Al grido lanciato dal duca, al richiamo di Patrick, l'uomo incontrato da Felton nell'anticamera entrò di furia nel gabinetto. Trovò il duca sdraiato sul divano che stringeva la ferita nella mano contratta. «La porte», disse il duca con voce morente. «La porte, vieni da parte di lei?» «Sì, monsignore», rispose il fedele servitore di Anna d'Austria. «Ma troppo tardi, forse». «Silenzio, la porte! Potrebbero sentirti, Patrick, non lasciate entrare nessuno. Non saprò quel che ella mi fa dire. Dio mio, muoio!» E il duca svenne. Intanto Lord De Winter, i deputati, i capi della spedizione, gli ufficiali del seguito di Buckingham avevano fatto irruzione nella stanza. Dappertutto echeggiavano grida di disperazione. La notizia che riempiva il palazzo di gemiti e di lamenti dilagò ben presto dappertutto e si sparse per la città. Un colpo di cannone annunziò che qualcosa di nuovo ed inatteso era accaduto. Lord Winter si strappava i capelli. «Un minuto troppo tardi!» esclamava. «Un minuto troppo tardi! Ah, mio Dio, quale sventura!» Alle 7 del mattino l'avevano avvertito che una scala di corda penzolava da una delle finestre del castello. Corso immediatamente alla camera di Milady, l'aveva trovata vuota, la finestra aperta, le sbarre segate. Si era ricordato la raccomandazione verbale che D'Artagnan gli aveva fatto trasmettere dal messo. Aveva tremato per il duca e, correndo alla scuderia senza neppure far sellare il cavallo, era balzato sul primo che aveva trovato, era corso ventre a terra e, smontato nel cortile, aveva salito a precipizio le scale, imbattendosi sul primo gradino, come abbiamo detto, in Felton. Ma il duca non era morto. Tornò in sé, riaprì gli occhi, e la speranza rinacque in tutti gli animi. «Signori», disse egli, «lasciatemi solo con Patrick e la porta. Ah, siete voi, De Winter. Mi avete mandato stamattina uno strano pazzo. Ecco come mi ha conciato. Oh, milord», esclamò il barone, «non me ne consolerò mai». «E avresti torto, mio caro De Winter», disse Buckingham tendendogli la mano. «Non conosco uomo che meriti di essere rimpianto per tutta la vita da un altro uomo. Ma lasciaci, te ne prego». Il barone uscì singhiozzando. Nel gabinetto non rimasero che il duca ferito, la porte e Patrick. Si stava cercando un medico e non lo si riusciva a trovare. «Voi vivrete, milord, vivrete», ripeteva inginocchiato dinanzi al divano del duca il messo di Anna d'Austria. «Cosa scriveva?» chiese debolmente Buckingham, grondante di sangue, sforzandosi di vincere per parlare di colei che amava gli atroci dolori. «Cosa mi scriveva? Leggimi la lettera». «Oh, milord», disse la porte, «obbedisci, la porte! Non vedi che non ho tempo da perdere?» La porte spezzò il sigillo e pose la pergamena sotto gli occhi del duca, ma invano Buckingham tentò di decifrare lo scritto. «Sul leggi», disse, «leggi, io non ci vedo più. Leggi dunque, perché fra poco forse non udirò più e morrò senza sapere ciò che ella mi ha scritto». La porte non fece più difficoltà e lesse. «Milord, da che vi conosco ho sofferto a causa di voi e per voi. Perciò vi scongiuro, se vi preme la mia pace, di interrompere i grandi armamenti che state facendo contro la Francia e di far cessare una guerra della quale ad alta voce si dice che la religione è la causa visibile e sottovoce che il vostro amore per me è la causa recondita. Tale guerra può non solo portare alla Francia e all'Inghilterra gravi catastrofi, ma anche può arrecare a voi, milord, sciagure di cui non potrei mai consolarmi. Vegliate sulla vostra vita, che è minacciata e che mi sarà cara dal momento in cui non sarò costretta a vedere in voi un nemico. La vostra affezionata Anna. Buckingham raccolse le sue ultime energie per ascoltare quella lettura. Poi, quando fu terminata, come se vi avesse trovato un amaro disappunto, chiese: «Non avete dunque altro da dirmi a viva voce, Laporte?» «Certo, monsignore. La regina mi aveva incaricato di dirvi di badare a voi, perché era stata avvertita che volevano assassinarvi. Ed è tutto qui, proprio tutto», aggiunse Buckingham impaziente. «Mi aveva ancora incaricato di dirvi che ella vi amava sempre». «Ah», disse Buckingham, «Dio sia lodato. La mia morte non sarà per lei la morte di un estraneo». Laporte scoppiò in lacrime. «Patrick», disse il duca, «portatemi il cofanetto che conteneva i puntali di diamanti». Il cameriere portò l'oggetto richiesto, che Laporte riconobbe per aver appartenuto alla regina, e ora il sacchettino di raso bianco dove le sue iniziali sono ricamate con perle. Di nuovo Patrick obbedì. «Prendete la porta», disse Buckingham. «Ecco i soli pegni che io avessi da lei, questo cofanetto d'argento e queste due lettere. Le renderete a Sua Maestà e, per ultimo ricordo», cercò intorno a sé qualche oggetto prezioso, «aggiungerete», cercò ancora, ma gli occhi obnubilati della morte incontrarono soltanto il coltello caduto dalle mani di Felton e ancora fumante del sangue vermiglio di cui la lama era coperta. «E aggiungerete questo coltello», disse il duca stringendo la mano di Laporte. Riuscì ancora a collocare il sacchettino in fondo al cofanetto d'argento. Vi lasciò cadere il coltello facendo cenno a Laporte che ormai gli era impossibile parlare. Poi, in un'ultima convulsione che non gli fu più possibile reprimere, scivolò dal divano sul pavimento. Patrick lanciò un urlo. Buckingham tentò di sorridere un'ultima volta, ma la morte fermò il suo pensiero, che gli rimase impresso sulla fronte come un ultimo bacio d'amore. In quel momento arrivò lì tutto affannato il medico. Si accostò al duca, gli prese la mano, la tenne un istante nella sua e la lasciò ricadere. «Tutto è inutile», disse. «È morto». «Morto! Morto!» esclamò Patrick. A quel grido tutti rientrarono nella sala e dovunque non vi fu che costernazione e confusione. Non appena Lord de Winter vide che Buckingham era spirato, corse da Felton, che era ancora custodito dai soldati sulla terrazza del palazzo. «Miserabile», disse al giovane che dopo la morte di Buckingham aveva ritrovato la calma e l'imperturbabilità che non dovevano più abbandonarlo. «Miserabile, che hai fatto?» «Mi sono vendicato», egli rispose. «Tu», disse il barone, «di che sei lo strumento di quella donna maledetta, ma te lo giuro, questo sarà il suo ultimo delitto». «Non so che intendiate dire», rispose tranquillamente Felton, «e ignoro di chi vogliate parlare, milord. Ho ucciso Buckingham perché ha rifiutato due volte, proprio a voi, di nominarmi capitano. L'ho punito della sua ingiustizia. Ecco tutto». De Winter, sbalordito, guardava i soldati che stavano legando Felton e non sapeva che pensare di una simile insensibilità. Una cosa soltanto gettava una nube sulla fronte pura di Felton. A ogni rumore che udiva, l'ingenuo puritano credeva di riconoscere i passi e la voce di Milady, che veniva a buttarglisi tra le braccia per accusarsi e morire con lui. A un tratto trasalì, fissò lo sguardo su un punto del mare che dalla terrazza dove si trovava si poteva dominare completamente. Con lo sguardo d'aquila del marinaio aveva riconosciuto là, dove un altro non avrebbe veduto che un gabbiano volteggiante sui flutti, la vela dello sloop che si dirigeva verso le coste francesi. Impallidì, si portò la mano al cuore che si spezzava e capì tutto il tradimento. «Un'ultima grazia, milord», disse al barone. «Quale?» chiese questi. «Che ora è?» Il barone trasse l'orologio. «Le 9:10», disse. Milady aveva anticipata la partenza di un'ora e mezzo. Non appena udito il colpo di cannone annunziante il fatale evento, aveva dato l'ordine di levare l'ancora. Il vascello vogava sotto il cielo azzurro a una grande distanza dalla costa. «Dio l'ha voluto», disse Felton, con la rassegnazione del fanatico, senza che però riuscisse a staccare gli occhi da quel battello a bordo della quale egli credeva certamente di discernere il candido fantasma di colei alla quale stava per sacrificare la vita. De Winter ne seguì lo sguardo, ne interrogò la sofferenza e indovinò tutto. «Sii punito tu solo per ora, miserabile», disse a Felton che si lasciava trascinare via con gli occhi volti al mare. «Ma ti giuro, sulla memoria di mio fratello che tanto amavo, che la tua complice non è salva». Felton chinò il capo senza pronunciare una sillaba. Quanto a De Winter, discese rapidamente la scala e si diresse al porto. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it